Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 29 settembre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio, il nostro programma che, come molti di voi sanno, fa da ponte tra carcere e città. Io sono sempre Caterina Bombarda, alla conduzione con Antonella Cortese. Ciao Antonella, buongiorno. Ciao Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. E partiamo subito con lo spazio dedicato alle nostre notizie. Oggi ne abbiamo una, l'Odissea dei braccialetti elettronici tra costi esorbitanti e pochissime attivazioni. Lo leggo dal Dubbio a firma di Damiano Aliprandi. Perché, come sapete, il tema dei braccialetti elettronici è sempre stato ostico, non sono mai mancati problemi per l'attivazione e per la disponibilità di questi strumenti. E così per più di un decennio il braccialetto è vissuto un po' nella marginalità, conseguenza di un disinteresse anche generale, anche della politica. E protrattosi questo disinteresse pur dopo che ne era stata prevista l'applicazione con un decreto legge, pensate, di 20 anni fa, del 2000. Però Caterina, la questione del braccialetto era stata resa nota e presente già da prima, o no? Ben 2 anni prima, nel 98, infatti, il tema era oggetto di attenzione da parte dell'ufficio detenuti e trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Ministero della Giustizia. Negli anni successivi, l'attenzione dell'amministrazione penitenziaria si focalizzava in particolare sull'approfondimento degli aspetti tecnici del braccialetto, sui sistemi di monitoraggio, certamente molto importanti, e anche sull'andamento di questa esperienza del braccialetto in altri paesi dell'Unione Europea. Però mi viene di pensare che il contesto politico fosse diverso, era il contesto politico di 20 anni fa in cui si discutevano queste disposizioni, giusto? Sì, bisogna un po' contestualizzare il clima politico che si stava respirando, che però in realtà non era tanto diverso da quello odierno. Gli anni tra il 98 e il 2001 si caratterizzano per una fase di forte instabilità politica, con dimissioni dei governi in carica già prima della fine della legislatura. E poi, naturalmente, in quel periodo il tema della sicurezza, siamo negli anni fra il 98 e il 2001, insomma. Ci ricordiamo quello che è accaduto, agitava il dibattito politico, la domanda di maggiore sicurezza da parte dell'opinione pubblica. In tale contesto venne introdotto nel codice di procedura penale il braccialetto elettronico come strumento applicabile con il loro consenso ai soggetti indagati o imputati, dunque a coloro per i quali la restrizione della libertà personale nella forma degli arresti domiciliari fosse intervenuta come misura cautelare e perciò prima della irrevocabilità della condanna. Dal 2001 al 2003 vi è una prima sperimentazione in 5 province del braccialetto elettronico, dopodiché il servizio venne esteso a tutta Italia e affidata la gestione in tutte le sue fasi al gruppo Telecom Italia SPA. Scusami, e poi che cosa successe? Dopo disastro, Antonella, è un disastro accertato dalla Corte dei Conti. Dalla pagina 51 della relazione si apprende che al 31 dicembre del 2011, quindi 10 anni dopo, i braccialetti elettronici attivati sono stati complessivamente 14. Il Ministero ha speso 81,3 milioni di euro per 14 dispositivi utilizzati, in 8 anni ogni braccialetto è costato quasi 6 milioni di euro, quindi una vera e propria catastrofe. E quindi, nonostante questo, ma la cosa veramente strana è che, nonostante questo disastro denunciato dalla Corte dei Conti, venne rinnovata a Telecom SPA senza nessuna gara d'appalto la gestione dei braccialetti. Nel frattempo, il TAR del Lazio fece, diciamo, la denuncia e affidò il servizio a Fastweb, dichiarando inefficace la convenzione precedente. Arriviamo all'anno 2016. Il governo avvia il bando di gara europeo che in agosto aggiudica a Fastweb con la fornitura di 1.000, incrementabili fino a 1.200, braccialetti elettronici, dunque per un totale di 23 milioni nel triennio per 36.000 o 43.000 dispositivi. Ma il Dubbio, il giornale Il Dubbio nel 2020 appura che al 15 di maggio dello scorso anno, cioè dopo 16 mesi di contratto, soltanto 2.600 braccialetti attivati, non quei 16.000 previsti, insomma, quindi anche qui abbiamo dei numeri che non ci aiutano. Beh, è piuttosto sconcertante questa cosa, ma di chi è la responsabilità di questi numeri, scusa? Ti sorprenderà, ma la rivista Il Dubbio ha accertato che la colpa non è di Fastweb, quindi non è del gestionale. In realtà il quantitativo dipende da quanto richiesto di volta in volta al Ministero dell'Interno. Quindi bisogna andare in alto nella scaletta delle responsabilità. In sostanza, il numero di braccialetti in uso dipende non da una carenza di dispositivi, ma esclusivamente dalle attivazioni e disattivazioni disposte dalle autorità competenti. Quindi c'è chiaramente qualcosa che non sta funzionando da parte di chi deve fare richiesta dei dispositivi, altrimenti non si capisce perché in alcuni penitenziari ci sono persone recluse che ne avrebbero diritto e che non usufruiscono i domiciliari perché manca la disponibilità dei braccialetti elettronici. Auguriamoci che in futuro si faccia di più, c'è una riforma della giustizia che sta per essere messa a punto, che anche questo punto sia previsto per il futuro e quindi con questo augurio per il futuro io non posso che lanciare una canzone di Dalla futura e ci rivediamo tra pochissimo. Chissà, chissà, domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, rimani. I russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani. Nascerà e non avrà paura nostro figlio. Chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà Futura, oh, il suo nome detto mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. E rieccoci, bentornati dopo la pausa musicale sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Antonella, parliamo di cultura e società, torniamo al Festival del Cinema di Venezia perché c'è un film dal titolo veramente originale che si chiama Qui rido io, raccontacelo. Sì, ritorniamo al Festival del Cinema di Venezia, di cui avevamo già parlato la settimana scorsa, per parlarvi di un film la cui regia è di Mario Martone, e nel quale sono stati impiegati degli attori di teatro bravissimi. Vi faccio qualche nome giusto per darvi un'idea: Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell'Anna, Antonio Truppa e Edoardo Scarpetta. Edoardo Scarpetta è veramente un successore di Edoardo Scarpetta, che è la persona, l'attore, il drammaturgo, il commediografo a cui fa riferimento appunto questo film, che è centrato proprio su questa persona. E Qui rido io, ovviamente, è recitato in napoletano e in italiano, con una selezione delle più belle canzoni della tradizione napoletana come colonna sonora. E non sono sempre, diciamo, contestualizzate nel periodo storico, di cui narra il film, però appartengono veramente alla migliore tradizione. Ecco, io non voglio farti spoilerare il film, però sappiamo che ci sono persone dagli istituti penitenziari che non lo potranno vedere ancora, quindi raccontaci un pochino di che cosa parla. Lo racconterò, ma ovviamente non fino in fondo. Se potessi riassumerlo in una frase, direi che parla del teatro e della vita dei teatranti, però voglio dare qualche indizio in più. Prima di tutto è ambientato all'inizio del Novecento, nella Napoli della Belle Époque, in cui splendono i teatri e il cinematografo. Il grande attore comico, appunto, Edoardo Scarpetta, intanto è il re del botteghino, aveva una grande fama e anche tanti soldi in quel periodo. Era di umili origini e si è affermato grazie alle sue commedie e alla maschera di Felice Sciosciamocca. Il pubblico napoletano sicuramente sa chi è Felice Sciosciamocca e che prende di fatto il posto di Pulcinella in qualche modo. Il teatro è la vita di Scarpetta, attorno al quale gravita tutta la sua singolare famiglia, composta da mogli, compagne, amanti, figli legittimi e illegittimi, tra cui, pensate un po', Titina, Edoardo e Peppino De Filippo. Sì, avete capito bene, i famosi De Filippo. Nel 1904, al culmine del successo, però, Scarpetta si concede un azzardo pericolosissimo. Realizza la parodia della figlia di Iorio, la tragedia del più grande poeta italiano, il vate Gabriele D'Annunzio. La sera del debutto in teatro si scatena un putiferio. La commedia viene addirittura interrotta tra urla e fischi e Scarpetta finisce con l'essere denunciato per plagio dallo stesso D'Annunzio. Pensate che inizia per la prima volta una causa sul diritto d'autore in Italia, è stata la prima in assoluto. Gli anni del processo saranno lunghi, saranno logoranti per lui, per la famiglia, per il teatro e tutto nella vita di Scarpetta sembra andare in frantumi, ovviamente, in questo periodo, ma con un numero da grande attore saprà sfidare il destino e alla fine vincere la sua ultima partita. Diciamo anche che però, se pensiamo all'eredità che lascia ai figli legittimi e illegittimi, quella vera che lascerà, che non sarà soltanto di natura economica, è il mestiere di attore di teatro. Infatti c'è una scena nel film in cui si arrabbierà tantissimo quando Vincenzo gli chiederà di fare il cinematografo. Vincenzo è uno dei suoi figli legittimi. E nella realtà, quando Scarpetta lascerà le scene, sarà proprio Vincenzo a prendere in mano la compagnia. Antonella, che cosa ti è piaciuto di più di questo film? Allora, mi è piaciuto e mi ha commosso molto vedere una Napoli del passato, quella narrata nelle canzoni, quella che in realtà un po' respiravo durante l'infanzia, raccontata dai parenti, dagli amici di una certa età, ritratta poi anche da Edoardo De Filippo, una città dalle mille anime, dove tutto è corale, dove la tolleranza è una qualità fisiologica, perché se non si è tolleranti non si può amare una città così e non si può vivere in una città così. E poi anche il linguaggio, i modi di dire che sono rimasti nella lingua, ce n'erano tanti nel film. Per esempio, chi di voi non ha mai sentito dire Adda passa annuttata? Quando c'è qualcosa che ci fa soffrire e vogliamo che passi in fretta, Adda passa annuttata è una frase che a Napoli si dice ed è una frase di Napoli Milionaria di Edoardo De Filippo. E, tra l'altro voglio anche ricordare che parliamo di una realtà che in quel periodo era di riferimento, perché la canzone italiana di inizio Novecento era proprio la canzone napoletana. E proprio per questo vi voglio far ascoltare una canzone scritta nel 1917, cantata successivamente da Roberto Murolo, che si chiama Reginella. Si fatta una veste scullata, nu cappiella, quei nastri e quei rose, stiva in mezzo a tre o quattro sciantose e parlava francese. E a così fui la triera cataggio incontrata, fui la triera a Tulete, gnorsì, t'aggio voluto. Bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è mamma più, mai foto tu, distrattamente pensa a me. Regine, quando stivo con mica, non mangiava capane e cerasa, noi campava mi vasa, e che vasa, tu cantava e chiagniva per me. Io cartilla cantava cuttica, reginello va bene a sto re, t'aggio voluta bene a te, tu m'hai voluta bene a me, ma non c'ha mamma più, mai vota tu. Distrattamente parli bentornati sul nostro programma Liberi Dentro Due Radio TV. Come sapete, la nostra seconda parte del programma è con l'ospite. Questa volta ne abbiamo tre, già da ieri. Stiamo parlando del gruppo della trasgressione nato a Milano, in carcere, carcere di San Vittore, poi si è allargata l'esperienza. Ho il piacere di parlare con il fondatore del gruppo, Iuri Aparo, per molti Iuri, ma il dottor Angelo Aparo. E Angelo, una cosa che mi colpisce tantissimo del vostro progetto è qualcosa che condividete anche un po' con la nostra redazione di Liberi Dentro e Du Radio, ovvero il fatto che c'è uno scambio tra il dentro e il fuori, la partecipazione alla vita della comunità. Voi lo fate da 25 anni, come ci siete riusciti? In un certo senso è parte strutturale del gruppo questo scambio. Il gruppo è nato e le prime ragioni che venivano dichiarate erano perché nasce il gruppo, perché i detenuti dentro il carcere chiusi non possono evolversi. Quindi la prima ragione che dicevo già all'epoca in cui è nato il gruppo era avere uno scambio col mondo esterno è indispensabile per permettere ai detenuti di avere un'idea di chi sono i cittadini che vivono la vita del cittadino. Perché, anche se questo è un capitolo che potrebbe essere approfondito in un altro momento, in verità chi vive stabilmente nella devianza ha una idea molto molto nebulosa, molto superficiale di che cosa sia la vita del cittadino, cioè di chi lavora. Dunque mettere a contatto i detenuti con le persone che vivono, che lavorano, che hanno figli, che fanno fatica, lo consideravo uno strumento educativo di per sé, già per il solo fatto che ci si incontrava. Ed inoltre questo permetteva a chi veniva da fuori, stiamo parlando appunto di 24 anni fa, di avere del detenuto un'idea meno fantasiosa, perché comunque, soprattutto in passato, la gente quando pensa ai detenuti, quando pensava, ci pensava sulla base dei film americani. 25 anni fa in Italia non c'erano film sul carcere italiano, cioè il genere filmico che parla di carcere è un genere che è nato in America e quindi sostanzialmente si parlava delle carceri americane. Dunque la gente, studenti, le persone a quello pensano. Vabbè, quindi l'obiettivo era lo scambio e il contatto con l'esperienza delle persone per assorbire, masticare, interiorizzare i sentimenti che vive una persona che lavora, che fa il falegname, che fa il medico, che ha figli. Questa è stata la ragione. Grazie Angelo. Ma una pausa musicale e tra poco riprendiamo con gli altri ospiti che, come vi ho detto, sono Angelo e Roberto, che sono in misura alternativa alla detenzione, e chiederò anche a loro l'allargamento verso la città. A fra poco. E rieccoci, bentornati su Liberi Dentro di Radio TV, riprendiamo il colloquio con il gruppo della trasgressione di Milano. Dicevo, do la parola ora alle persone che partecipano sempre del gruppo della trasgressione, Angelo e Roberto. Loro sono in misura alternativa alla detenzione, per noi di Eduradio è un onore questo, perché non riusciamo ancora ad avere le voci delle persone detenute, voi siete i primi. Vorrei chiedervi se è stato, in particolare allora a te Adriano, se è stato facile immediatamente questo scambio con l'esterno, perché io so che al gruppo partecipano cittadini comuni, studenti universitari, famiglie con vittime di reato, quindi un gruppo misto che parlano, dove si parla tutti insieme. È facile riuscire a parlare con così tante voci diverse, esperienze diverse? Ti dico di no, non è facile. Però se si mette alla base, che se ci si mette in gioco e si vuole evolvere e si vuole capire cosa si è fatto della propria vita, si mette lì e ci si ascolta. Io mi ricordo che quando sono andato al gruppo, che mi sono andato per la prima volta, mi sentivo fuori, cioè dico, dove sono qui? Però con man mano, io non parlavo, ascoltavo solo. Il dottor Apare mi ricordo che mi guardava sempre per dire, ma questo si siede qua, non parla mai. Adesso mi devono picchiare e stare zitto, per dirla tutta, però comunque ci si ascolta e poi ci si vede che le persone stanno lì non per giudicarti, ma parlano all'uomo che c'è. Tutto ciò non è che significhi che cancellano l'assassino, cancellano il rapinatore o cancellano uno che ha commesso i reati. I reati purtroppo ci sono stati e non si possono cancellare, però si prende l'uomo e si fa sì che si porta con la mano per costruirlo, per farlo diventare cittadino. Adriano, grazie, e mi dai lo spunto per chiedere allora a Roberto In questo confronto con tante voci, con le persone libere, appunto il confronto tra l'esterno e l'interno, quali sono state le prime domande che la società esterna fa ai detenuti di solito? Domande che magari possono essere anche difficili da affrontare, no? Permette di aumentare gli strumenti di consapevolezza e quindi rappresentarsi con le persone già in una forma, diciamo, più elevata, sia come morale, sia come emotività e sia come riconoscimento verso l'altro. Ovviamente sono tutte delle esperienze sempre nuove, perché all'interno del carcere, per quanto mi riguarda, io ho fatto anche il progetto Sicomoro, che è un progetto di giustizia riparativa, quindi ho avuto modo di rapportarmi e confrontarmi con parenti di vittime di mafia, e addirittura ne ho trovato uno, anche lui detenuto, che era mia vittima, cioè era un parente di vittime mie. Quindi ci siamo trovati tutti e due carnefici, ma nello stesso tempo lui era anche parente delle mie vittime, che non era stato scelto volutamente dalla direzione, ma è stato, tra virgolette, una casualità. Ho scoperto in quel frangente anch'io di essere stato vittima, perché nell'84, per un errore di persona, mi hanno ucciso mio padre. Ma io questo vittimismo dentro di me non l'ho riconosciuto, non lo riconoscevo, non l'avevo mai assaporato, masticato. L'ho riconosciuto nella forma, diciamo, giusta del riconoscimento, attraverso tutti questi costi di formazione, ma prima invece l'avevo riconosciuto come aggressività, quindi tra virgolette mi sono vendicato, mi sono creato gli alibi, le giustificazioni per vendicarmi. Detto questo qua, con il gruppo della trasgressione fuori le mura detentive, quindi rappresentandoci con Libera di Don Ciotti, abbiamo avuto questa grande opportunità, che il gruppo della trasgressione come matrice agli antipodi era agli antipodi di Libera, perché Libera contiene i parenti di vittime, il gruppo della descrizione invece è per l'evoluzione della coscienza del deviato. Quindi due realtà diverse, ma due dolori che sembravano all'inizio diverse sia per noi che per loro, ma anche nel dottor Abara invece erano così liberi e limpidi, perché erano due dolori che se uniti erano per lo stesso obiettivo. Quindi dal momento in cui io consegno il mio dolore, pur avendo fatto del male, a un parente di vittime di mafia, e nello stesso tempo do la possibilità e metto nelle condizioni il parente di vittima di mafia di consegnarmi e consegnare al gruppo della descrizione il suo dolore, ciò significa che si stanno abbassando delle barriere, che la persona che è vittima ritorna in qualche modo a rivivere o a vivere, e chi è stato carnefice tasta delle realtà e vive delle realtà, che dice: sì, sono colpevole, ho i miei sensi di colpa, però oggi in qualche modo sto restituendo qualcosa alle persone. Grazie mille, chiarissimo. Ci rivediamo domani, approfondiremo come lavora il vostro gruppo, quindi restate con noi, alla prossima. Ci salutiamo anche oggi. Vi ricordiamo di iscriverci a redazione liberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna. La rubrica a seguire sull'Epida TV e sul Teletricolore alle ore 17 è con l'equipe sanitaria del carcere, con l'intervista alla dottoressa Filomena Stoico, infermiera, e che racconterà la sua professione infermieristica tra le sue attività e il ruolo all'interno dell'istituto penale. Grazie, grazie a tutti, grazie da me, da Antonella Cortese e da Enea Flacco, e noi ci rivediamo domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.